Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Destini incrociati nell'anno che ha cambiato per sempre il volto del nostro paese. Dicono tutti che qui parte l'inchiesta del secolo. Se chi comanda oggi è debole, dobbiamo capire chi comanderà domani. Da oggi le ferie sono finite. Chi non se la sente, quello la porta. Qua facciamo la storia. Un tizio in televisione ha detto che tutto il sistema è criminale. E allora qualcuno dovrà pur combatterlo, questo sistema. Benvenuti a Tangentopoli. Certo, come corre veloce la storia. Già facciamo parte della storia con la nostra modesta esperienza esistenziale, nemmeno ce ne accorgiamo. Mi sembra ieri che mi occupavo professionalmente di Tangentopoli, come tutti i miei colleghi, e già se ne parla come qualcosa che appartiene al passato. Poi quanto passato sia è da vedere. 1992, la serie televisiva che viene trasmessa su Sky, che già ha suscitato grandi polemiche, grandi indignazioni. Voi pensate perché? Perché si è offesa la classe politica che era stata al tempo della Prima Repubblica, è coinvolta, per dire, continua a essere una sorta di operazione di stillicidio, di tortura verso dei poveri innocenti. Si sono offesi i familiari delle persone più crudamente implicate, si sono offesi i portatori della giustizia e dell'equità e del senso civico, perché hanno detto non è stata sufficientemente rappresentata la corruttela del paese. No, si è offesa la mamma di un'attricetta perché è stato detto che è una cagna. Beh, tutto qua. Beh, vogliamo parlarne, perché in effetti il nostro paese aveva una sua solida e confermata tradizione di raccontare l'irraccontabile attraverso la fiction, non soltanto televisiva, ma anche attraverso la commedia. Questo è uno dei cavalli di battaglia del nostro amico Giuseppe Sansonna, come da anni ci segue in queste letture, approfondimenti tra realtà e finzione. Non so se ve ne siete accorti, il 1° aprile abbiamo fatto uno scherzo, nessuno se n'è accorto, ci hanno tutti preso sul serio. Abbiamo parlato di un film di Totò inesistente, Il Papa Buono, dettagliato con interventi. Pensate che ci ha chiamato addirittura il sindaco del paese, e forse andremo lì a rappresentare l'irrappresentabile, ciò che non esiste. Giuseppe Sansonna, una parentesi. Buongiorno. Sul nostro film. Andremo a Ferrazzano, perché sicuramente dovremo ripercorrere l'archeologia di questo meraviglioso film inesistente. Ci sono testimoni, in realtà. Ci sono testimoni che inventeremo noi, però sarebbe stato bellissimo. Nulla è più facile trovare testimonianze dell'inesistente. Riferire l'irriferibile, questo è la vera santità. In attesa di andare avanti nel nostro lavoro di archeologia dell'impossibile, del film di Totò girato a Ferrazzano, torniamo a 1992. Sì, è una serie che si iscrive nella linea di grandi racconti popolari degli ultimi tempi, legati più che altro alla criminalità, come Romanzo Criminale, come Gomorra, che un po' recuperano quello di cui parliamo noi da anni, come dicevi prima. Cioè, sì, ma perché viene meglio l'aspetto coatto? Gomorra viene benissimo, Romanzo Criminale ancora me lo rivedo per la quarta volta e mi appassiona. Perché invece il 1992 è così lontano dalla realtà? Mentre Romanzo Criminale e Gomorra danno un senso di realismo, noi che abbiamo vissuto anche in epoca abbastanza vigile, perché già facevo questo mestiere, sembra di vedere una brutta copia del film di Sorrentino, sembra far vedere la Roma Godona o la Milano Godona rappresentata con modelli contemporanei. Ma perché qui si parla di politici, di pubblicitari, del mondo della televisione, che tende già all'autorappresentazione come macchietta, come cliché, come stereotipo, però i riferimenti originali spesso sono molto più carismatici. Cioè, Dell'Utri è un grandissimo attore nella sua perfidia micidiale, in questi sguardi, questi lampi fulminanti che lui ha, anche la voce, il modo di, la postura del corpo. Riprodurlo ci porta inevitabilmente a delle macchiette. Non sarà anche che è molto facile rappresentare i cattivi, che tutti sono d'accordo che i camorristi e i mafiosi siano gentaccia, quando è rappresentare qualcosa che ancora ha legami stretti con il potere attuale c'è qualche, diciamo, attenzione in più? È difficile mettere a fuoco e affondare il coltello il bisto di quello, sicuramente. No, per lei ho in mente dell'altro. Ha presente Chiquita? La banana 10 all'ode, ha presente? Beh, un tempo si chiamava United Fruit Company. Avevano enormi piantagioni in Guatemala e controllavano il governo con dittatori compiacenti. Per questo la chiamavano la Repubblica delle Banane. Sì, è una bella storia. Ma io cosa c'entro? Dobbiamo salvare la Repubblica delle Banane. perché il vero problema è che poi lo spettatore ha ancora sulla pelle l'idea di vivere tuttora, di essere sempre vissuto. Immagine distorta, populista, figurati, alimentata da mille filoni scellerati. Ma dice, ma parliamo di qualcosa che stiamo... È come se fosse un passato che ha una sfumata talmente lunga sul presente che è difficile rappresentarlo. Con la camorra, con la malavita organizzata, ha un rapporto contiguo soltanto chi ha rapporti diretti per vie, per storie processuali, o in quanto vittima, o in quanto complice, o in quanto abitante di un luogo in cui è endemico questo fenomeno. Ma comunque qualcosa, è come parlare del selvaggio West per gran parte degli italiani. Qui è come parlare dell'amministratore di condominio, come parlare del signore t'ha raccomandato quando volevi mettere un figlio da qualche parte, come parlare del tuo socio d'affari, come parlare di te stesso quando comunque di questo sistema sei stata una pedina. Sì, c'è una contiguità in fondo con questi personaggi che in fondo non sono, come dicevi tu, sono molto più vicini alla nostra quotidianità dei veri delinquenti, quelli, cioè dei delinquenti estremi, di quelli che sparano direttamente. Però appunto c'è, soprattutto a me non piace molto quando i personaggi fanno uno spiegone, fanno, come si dice volgarmente, gergalmente, cioè raccontano un pezzo di sceneggiatura. Totalmente improbabile che un politico del tempo di Tangentopoli facesse questa disquisizione sulla Repubblica delle Banane e dicesse Cicuita la banana 10 lode, ma quando mai? Sì, Scorsese dice che a volte c'è più senso in un momento di passaggio di un caffè da un personaggio a un altro, un frammento, e quello è il vero cinema, cioè è quando nel quotidiano lampeggia l'essenza profonda di un personaggio senza bisogno di fare del microsaggio in un dialogo. Da l'impressione che è stato scritto guardando la voce Tangentopoli su Wikipedia da persone che hanno un'età media di 25 anni. Sì, a me fa riflettere questo, la necessità appunto di poggiarsi ai cliché, ma che c'è anche nell'ultimo film di Virginia, nel Capitale Umano, c'è la necessità di rappresentare il leghista col va pensiero che gli parte come suoneria cellulare. È come se questi appigli fossero indispensabili per raccontare il presente, mentre prima non lo erano. Ecco, noi invece vogliamo adesso dare una velocissima rassegna, un escursus di cose di cui abbiamo già parlato, ma vale la pena riportarle in superficie, di come secondo noi con mestiere diverso è stato toccato questo tema negli anni passati. Ebbene, questo qualcuno che da mesi non fa altro che legiferare sul prezzo del miele industriale, sul colore delle strisce pedonali, sulle scuole di flauto traverso e di flauto dolce, sulla pericolosità delle cacche dei piccioni nei nostri centri storici. Ecco, questo qualcuno si dovrà ricredere. Ecco, io preferisco uomini brillanti ed estrosi, anche se un po' mascalzoni, a uomini grigi, noiosi, ma onesti. Perché alla fine il grigio... Qui c'è una trama molto evidente, questo è Nanni Moretti del portaborse. Poi faremo la prossima settimana una puntata, una morettiade, perché è fresco di oggi, probabilmente per un pugno di ascoltatori, la visione dell'ultimo film. Diamo tempo di elaborare l'ultima fatica di Moretti, poi rifaremo la morettiade. Poi nel portaborse c'è qualcosa in più, molto in più rispetto a questa fiction. Beh, indubbiamente il film di Lucchetti, tra l'altro appunto di quegli anni, dei primi anni 90, racconta questa Seconda Repubblica con tutto il suo rampantismo, tutta la sua il passaggio fra prima e seconda Repubblica, con tutta la sua violenza, la sua virulenza, e con dei personaggi che hanno anche una visceralità e che sfuggono al cliché, ma appunto è la forza del cinema questa, quella di raccontare. Cioè, non è tanto l'onorevole interpretato da Moretti, ma è quanto il suo portaborse. Il suo portaborse, i rapporti umani di vicariato fra il Salieri e il Mozart della situazione, o comunque la figura che ha servita, che costruisce la personalità del politico e lo rende efficace e rampante. Dice Sant'Ignazio che per meglio vincere ogni disordinato appetito, se si è tentati di mangiare in eccesso, si dovrà digiunare. Ebbene, amici, io digiunerò. Voltrano, che hai voluto dire? Quello che ho detto. Ti conosciamo. Tu alludi ad altri modi di mangiare. No, infatti io digiuno, seguendo il consiglio del santo. Perché non digiuri anche tu? È tutta la tua cortesia. Ecco, se i posteri non avranno strumenti iconografici sufficienti per interpretare il respiro e la profondità di un'epoca travagliata come quella degli anni Tangentopoli, avranno strumenti abbastanza vicini alla realtà per vedere la fase precedente, la cosiddetta Prima Repubblica, quella nata sui valori della resistenza, quella nata sul valore della famiglia, del rapporto sacrale tra Stato e cittadino, in todo modo. Elio Petri indulge nell'espressionismo, qui crea questo magnifico Ciccio Ingrassia come Nosferatu, Max Schreck con le sue mani lunghissime. Tu pensa l'operazione, prendere un comico che ancora non era stato rivalutato, che ancora era considerato come oggi i soliti idioti, capito? E fargli fare un ruolo così importante. Un magnifico corpo famelico, appunto alla Gross, alla Otto Dix, alla Bruegel, calato in questo albergo sciasciano, nelle penombre, appunto il grande summit della Democrazia Cristiana, che deve decidere il futuro del paese. E questo, fanno un ritiro spirituale, un grande prete che lo gestisce. Alla Sant'Ignazio di Loyola, appunto, todo modo por buscar la grazia divina, questo è il punto di fondo di questa grande riunione, ma appunto lì si lavorava oltre il cliché, si sfondava il cliché andando nell'espressionismo, creando dei mostri veri, ma dei mostri che coglievano delle essenze profonde, delle essenze vitali. In cui il padre spirituale poi era l'assassino e lo sterminatore di questi uomini. Questo era un Volonté, tra l'altro. È il rovesciamento totale. Sul set Volonté imitava Moro, e i primi due giorni di riprese li buttarono perché diceva Petri che prendeva la bocca dello stomaco, diventava un'imitazione eccessiva. Quindi lavorarono sull'espressionismo, sull'eccesso, e diventò un film maledetto, perché poi, dopo la morte di Moro, fu un film oscurato, sparì oggi. Straordinario Mastroianni nella figura del prete. Del prete cattivo come non mai, appunto. C'è tutta una serie di attori, di volti della commedia e del grande cinema italiano, che si prestano a questa operazione di Petri e la rendono vitale. Allora, ci fermiamo un istante, diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo e affondiamo ancora di più, diciamo, la nostra attenzione nel passato, visto che il presente è così povero di scaturigini di pensieri e riflessioni. Melog, cronache meridiane. Quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Cercheremo di andare più veloci possibili con Giuseppe Sansone, perché vorremmo darvi possibilità di ascolto. L'ascolto è importante, al di là delle immagini, di quello che è stata la lettura dei tempi indicibili, delle fasi indicibili della nostra Repubblica attraverso il cinema, quando si esprimeva come vera e propria fulminazione artistica, non soltanto come lettura, tanto per dare un'infarinata, tanto per raccontare, tanto per dire, tanto per creare una bella campagna di fuffa, come la mamma che scrive su Facebook a tutti i cattivi che hanno osato dire che la figlia recita come una cagna. Qui Francesco Rosi prende il corpo leonino, la faccia carismatica di Rose Tiger, e ne fa uno speculatore edilizio nella Napoli degli anni 60. Quindi, però, come disse lui in un'intervista... Ecco, pensa quanto era complicato raccontare questa storia in un momento in cui il potere politico basava la sua forza sugli appalti, sulla distruzione del paesaggio, sulla distruzione delle città, sui tanti soldi che hanno fatto pochi in quel periodo, cementificando ovunque era possibile. Sì, e poi la cosa bella, tornando al discorso di 92, è che Rosi, come disse in un'intervista che gli feci poco prima che morisse, era interessato all'aspetto letterario e umano dei personaggi, a dargli delle sfumature, a coglierli non solo nel fare delle spiegazioni sulle loro... Non era cinema politico, non era cinema impegnato, non gliene sbatteva le palle di fare qualcosa, raccontava... Da artista, osservava e raccontava. Lo diventava di riflesso, come dovrebbe essere. Lo diventava, perché poi se tu vai nei gangli della realtà, nelle viscere della realtà, poi emerge anche l'aspetto politico, anche ma inevitabilmente. L'anatomopatologo che sventra il cadavere di un ucciso non è il giudice che poi giudica l'assassino, è quello che ti dice come è morto. Certo, e in più c'è l'aspetto poetico, profondo, emotivo, che è legato alle dinamiche, proprio le relazioni fra i personaggi, l'ammirazione che può avere anche l'uomo che sta dalla parte della giustizia verso il malfattore, e in cui c'è anche un certo confronto fra personaggi in questa direzione nel film di Rosi. Ecco, non sono manichei, non c'è male, bene, troie, donne per bene, delinquenti e onesti, no, come sempre. Ma la vita non è manichea, la vita non è manichea. Anche noi c'erano queste aree, da grandi intellettuali, siamo dei cialtroni, totali cialtroni, io più di te. Abbiamo invitato nel nostro studio quattro autorevoli esponenti delle precedenti amministrazioni della città partenopea, che gentilmente risponderanno a quei telespettatori che nel corso del nostro incontro vorranno telefonicamente proporre quesiti ed opinioni. L'onorevole Lobove. L'onorevole Lobove. Iso innocente. L'onorevole Lobove e l'onorevole Lobove. Niente di nuovo sotto il sole, tutti parenti, tutti della stessa famiglia. E qui Le mani sulla città in versione parodica, con Mastroianni appunto reduce da Todomodo, che qui fa appunto l'anchorman televisivo in questo studio con Plastico Vespiano di Napoli, che viene poi di fatto divorata dai fratelli Lobove, divorata materialmente, cioè la metafora diventa carne plastica viva, questi si mangiano la città a pezzi e bocconi, come fanno poi realmente nella vita. Prima accettate il principio che la lettera sia segreta, poi non è segreta. Il comitato ha deciso che niente va tenuto segreto al movimento rivoluzionario. Potevate dirmelo, l'avrei riscritta. Non c'era tempo, siamo in guerra, non siamo mica in Parlamento. Ma vi rendete conto che rendendo pubblica questa lettera avete offerto ai miei nemici l'occasione? E i miei nemici non sembrano essere pochi da quanto comincia a trapelare. Gli avete offerto l'occasione di svilire la mia integrità con rischi. Diciamo che questa era la cosa più difficile. Tuttora c'è un grande alone di difficoltà e ambiguità. Come si rappresenta il caso Moro, che ancora non esiste una verità certa, assoluta e condivisa? Allora però qualcuno ci ha provato. Moro, come fa vedere Sorrentino nel Divo, è il banco della storia politica e civile italiana, quindi appare sempre lo stesso. Volontè lo rifà negli anni Ottanta qui con Giuseppe Ferrara nel caso Moro, e lo sottrae alla macchietta e lo umanizza, perché ha necessità di questo risarcimento morale con se stesso, con la propria storia personale e politica, e quindi gli dà una forma più umana. Questo è un film filologico, molto quasi documentaristico, pieno di grandi informazioni, però ecco, era un altro modo, si faceva ancora del cinema. Anche se i documenti non hanno mai detto nulla di certo. Certo, rimane sempre l'indicibile. Sono usciti altri 5-6 libri dopo questo film che danno altre verità, altri scorci, altri spunti, e tuttora se ne fanno. Sì, l'Italia rimane sempre in questo porto delle nebbie, tutto sommato. E forse avete sbagliato persona. Io non ho alcun potere istituzionale, non ho incarichi di governo. Ma tu sai la Democrazia Cristiana? Noi non vogliamo processare te come persona, il privato cittadino, il padre di famiglia, ma ciò che rappresenti, il simbolo, la funzione, il partito che tu incarni. Così come io rappresento tutto il proletariato. Il mio partito è... un partito, certo, è una roba che prende alle viscere raccontare questa roba. Adesso, oggi, a posteriori, non è la stessa cosa che qualcuno tira una copia del Duomo di Milano, del Colosseo, non ricordo, in faccia a un politico, un altro tira le mele in faccia a un altro, una ragazzina tira i coriandoli a Draghi, capito? Molti hanno tradotto confetti, perché in francese sono confetti e sono coriandoli. I confetti fanno male, i coriandoli sono di carta. Qui è un'altra cosa. No, qui è Buongiorno Notte, appunto, è sempre Banquo Moro, che qui assume però i tratti di Erlitzka. Anche qui sembra un padre spirituale, ancora un'altra dimensione, una figura quasi in odore di santità durante la prigionia delle BR, e con appunto Locascio che gli spiega appunto i motivi processuali per cui è lì. Poi, capito, sempre il rapporto fra carnefice e la possibile, anzi la vittima designata, è atroce. Sulle volontà, le ultime volontà, e qui una persona che poi è stata ammazzata davvero. Qua parliamo di tutt'altra cosa, di tutt'altro scenario. A che ora ti sei svegliato, Giulio? Alle 4:30. La Pira si svegliava alle 3:30. La Pira era un santo, io sono un peccatore. Quante volte, Giulio? Da oggi 7. 7 volte presidente del Consiglio, 25 volte ministro. Mai avuto un parrocchiano così illustre. Siamo tutti illustri davanti a Dio. Montanelli. Sembra una leccata dire che Sorrentino si è inserito nel filone che stiamo parlando con il Divo. È stato forse uno degli ultimi film in cui c'è questa volontà di rappresentazione metaforizzata, con interventi di perfetta libertà propria e comprensibile da parte di chi pensa, immagina e gira un film, che però è rimasto in questo filone in cui si tenta di dare una rappresentazione che vada oltre la semplice, oltre lo Wikipedia televisivo di un fenomeno. Sorrentino lavora sull'espressionismo di Petri, poi ci mette tutta la sua cultura, il fumetto di Andrea Pazienza, appunto, che rifaceva Andreotti, Hellraiser, perché quando fa l'agopuntura in testa è proprio una citazione di quel mondo là dell'horror americano, calato su Andreotti, che sembra un Riccardo III beniano con questa voce flautata, invece lui aveva una voce che disdiceva il suo aspetto da Nosferatu reale, no, era una vocettina, sì, la voce sì. Da nonno romano, sì. Benevolo, appunto, che mascherava poi. Ma piacque Andreotti questo film, si è mai espresso? No, si arrabbiò, disse che mascalzonata, poi capì, come sempre ha fatto, una sua storia, che era meglio mettere tutto a traluce. Sì, aveva perché... ancora, diciamo, una lettura precedente al 2.0 di quella che è la capacità di propagazione idea. il divo racconterà molto più Andreotti di quanto le vignette di Forattini, che nessuno si ricorderà. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie. Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Ah sì? Sì. In Parlamento 3 voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ecco, questa è una massima eterna. Che film è? Questo è Gli Onorevoli con un Totò. E tra l'altro, che anno è? Qui siamo proprio primi anni 60 e Totò soprattutto. E com'è così attuale? Potrebbe essere stato scritto ieri. Totò è quello di votanto il partito monarchico, no? Appunto, a cui Totò era legato per la sua ideologia da principe. E la cosa particolare è che in un film molto popolare, molto piano, se vogliamo, molto semplice come Gli Onorevoli, ci sia una deformazione grandangolare dei personaggi. Cioè il primo piano di Totò e di chi gli sta parlando e chi gli propone questa corruzione, che è deformato, appunto. Anche qui torna l'espressionismo di Petri e tutto quel mondo sorrentiniano. Ha creato un'icona eterna. Totò vota Antonio, è stata una delle cose più usate nelle pubblicità, nelle campagne elettorali, nella satira. Quindi siamo finiti parlando di Totò, abbiamo iniziato con Totò. È proprio un destino da cui non possiamo sfuggire. La nostra discesa Ferrazzano. Esatto, di cui ricorre tra l'altro l'anniversario della morte. Sì, sì. Quanti sono? Dal 67. 67, sì. Non è proprio 50 anni. Sì, però insomma, è in questi giorni. Va bene, in questi giorni, ricordiamo tutto.